Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Social network danno diritto di parola a legioni di imbecilli. Suscitano polemiche le frasi di Umberto Eco sul ruolo della rete ai giorni nostri, pronunciate all'Università di Torino nel corso della cerimonia in cui è stato insignito della laurea honoris causa in comunicazione e cultura dei media. Da un lato un fenomeno anche positivo, pensiamo a cose che succedono in Cina, o Erdogan in Turchia, è stato anche un movimento di opinioni. Qualcuno ha detto se ci fosse stato internet ai tempi di Hitler i campi di sterminio non sarebbero stati possibili perché la notizia si sarebbe diffusa viralmente. Ma d'altro canto fa sì che dà diritto di parola a legioni di imbecilli, i quali prima parlavano solo al bar dopo due o tre bicchieri di rosso e quindi non danneggiavano la società. Ma davvero, signora mia, ciò dice Umberto Eco. Legioni di imbecilli hanno diritto di parola, possono parlare, possono esprimere il loro parere, possono dare testimonianza di quello che pensano e sono delle grandi imbecillità. Cosa propone il professore il giorno che lui danno la laurea honoris causa, proprio in scienza della comunicazione, quindi comunicazione e cultura dei media, da profondo conoscitore in quanto semiologo dei segni che passano attraverso gli umani per comunicare? Beh, lui dice che in realtà bisognerebbe chiuderla probabilmente questa sorta di recinto aperto degli imbecilli, bisognerebbe ritornare a delle categorie di pensiero che siano giudici di quello che si dice e si pensa. Propone un ritorno ai giornali di carta, perché probabilmente è un supporto tradizionalmente indicatore di verità. Bisognerebbe fare dei comitati, non so, di saggi, dove dai giornali ogni giorno fanno pagine di critica a quello che viene scritto in internet. Beh, mi sorprende molto che proprio da Umberto Eco, che considero uno dei maestri della letteratura e della saggistica vivente perlomeno, siano venute queste parole così banali rispetto alla complessità e anche alla vertigine, alla curiosità che ispira il mondo della cultura digitale. È vero, la rete è piena di imbecilli. È vero, gli imbecilli hanno libertà di parola, ma possono parlare, possono esprimersi. Vogliamo tagliare le corde vocali a tutti gli imbecilli per non sentire le loro imbecillità? Vogliamo impedire agli imbecilli di esprimersi, quindi non potrebbero nemmeno votare gli imbecilli? Come facciamo a selezionare gli imbecilli di fronte alle urne di voto? E dobbiamo selezionarli invece in un luogo in cui loro esprimono naturalmente il loro parere, per quanto detestabile, per quanto fallace, per quanto banale, per quanto populista, per quanto scientificamente rilevante, lo esprimono. E cosa deve fare oggi l'intellettuale? Questa è la domanda che mi pongo questa mattina a fronte della dichiarazione di Umberto Eco, che è stata passata dai media come se fosse una massima di saggezza, ma è esattamente quello che dice ogni medio ben pensante che con il suo smartphone dice: vedi, questo è utile per vedere gli autovelox lungo la strada, è utile per fare acquisti, è utile per avere importanti informazioni dal mondo, è utile, come dice Eco, estrema banalità. La rete è stata utile per il risveglio dell'Oriente, ma figuriamoci, o per quello che è successo. La rete adesso è lo strumento più potente in mano all'ISIS per fare la sua battaglia. Non c'è il lato buono della rete. Nella rete bisogna immergersi, nella rete bisogna stare gomito a gomito con il lato oscuro dell'imbecillità umana. E l'intellettuale deve conoscere la rete, deve starci dentro, non deve pensare che ci siano ancora quei bastioni che fanno sì che ci siano professori che fanno lezioni, ci siano esegeti dell'umanità che raccontino la loro storia e ci sia una massa imbecille. È vero, io credo che l'umanità sia fondamentalmente costituita da imbecilli che però può soltanto guardare, seguire, osservare, prendere lezione o acquistare libri o guardare programmi televisivi, essere passivamente quello che è uno strumento in mano a alcuni eccelsi. Gli dei sono tutti morti, gli altari sono impolverati, non esistono più sacerdoti del pensiero. Il pensiero va conquistato giorno per giorno, perlomeno la propria capacità e possibilità di esprimere pensiero e quindi di creare pensiero e quindi di portare intelligenza nel mondo, lavorando dentro questa massa di imbecilli. È come una tigre che ci può azzannare perché ormai non c'è più gabbia per contenerla, possiamo solo saltargli sulla groppa e cercare di cavalcarla. 800 24 0024. Oggi internet promuove lo scemo del villaggio a detentore della verità. Sono della gente che di solito veniva messa a tacere dai compagni, ma tasti stupid, ecco, e che adesso invece ha lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. Secondo lo studioso Alessandrino, che proprio 61 anni fa si era laureato a Torino in lettere e filosofia, internet è un gran calderone di bufale che ci impone sempre di più l'esercizio di capacità critica e di filtraggio, una capacità che deve essere insegnata a scuola, ha detto Eco, per far apprendere ai giovani come filtrare le mille informazioni che vengono dai siti. Già, chi insegna ai giovani della scuola, chi ha gli strumenti per leggere, interpretare, dare le vie di percorso attraverso il grande caos che stiamo vivendo nella rete. Sì, siamo in un momento caotico, bisogna vivere il caos, bisogna avere capacità di comprendere e vivere e fare di virtù, fare virtù dell'intossicazione che ha contaminato tutti noi. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Io questa mattina, preso da furore che a un certo senso avvalora e dà testimonianza e prova alla teoria di Umberto Eco, quindi sono un imbecille che ha diritto di parola, ho scritto subito in internet, lo vedete nel sito del quotidiano La Stampa, quella che è la mia risposta. Non è che io rispondo a Eco, rispondo comunque a un pensiero che reputo passatista, che mi meraviglio di vedere interpretato da un personaggio che lascerà un solco indelebile nella storia del pensiero. E disturbo questa mattina Stefano Morigi, vi dico anche perché. Morigi lo conoscete, è un nostro ospite consueto, storico, filosofo della scienza. Questa mattina, quando io l'ho chiamato per disturbarlo e lì che ne pensi di questa roba che ha detto Eco, stava facendo lezione perché sta tenendo un master in comunicazione della scienza alla Bicocca di Milano. Ho sottoposto a lui il mio pensiero scritto sulla stampa, l'ha sottoposto ai suoi allievi e a tempo reale daremo testimonianza di quello che alcuni giovani, probabilmente ancora non avvinazzati al punto tale dei velin della rete da potersi esprimere senza pregiudizio, pensano del pensiero di Eco e della mia reazione. Intanto tu Stefano cosa ne pensi? Intanto ti comunico che siamo ancora in aula, quindi siamo in diretta dall'aula della Bicocca dove teniamo questo master in comunicazione della scienza. Quello che penso io è che il problema dell'abbondanza, della gestione di un'abbondanza molto variegata e complessa si è sempre posto in maniera diversa ogni qualvolta la tecnologia ha rivoluzionato i metodi, i tempi, i modi della comunicazione. Sempre stato un signora mia che starà succedendo, dove andremo a finire? Ci sono sempre state le signore mie che intervenivano per dirla con Eco, facendo gli apocalittici del caso. Fa specie che chi ha scritto apocalittici integrati si riconosca adesso appunto nella categoria delle signore mie, e è come se Platone avesse chiesto una patente per chi avrebbe poi dovuto usare la scrittura alfabetica, o Gutenberg una patente per chi poi, certo, con gli strumenti precedenti c'erano più filtri, e mentre la rete rende autore chiunque abbia la possibilità di accedere appunto alla rete medesima. Sì, ma questo non dà dignità. Non dà dignità a chiunque di lasciare tracce indelebili come lasciare Eco nel pensiero umano, ma dà possibilità comunque di interagire, di comunicare, di contaminarsi, di saltabeccare, che io trovo fondamentale. Maurizio, buongiorno. 800240024, dite la vostra. Quello che ha detto Umberto Eco vi dà patente di imbecilli, quindi di possibilità di esprimere il vostro parere. Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, Maurizio da Vicenza, 34 anni. Io sono d'accordo con Eco, però, perché mi pare che l'internet stia dando veramente spazio a emarginati della società che non avrebbero spazio e che dicono la loro, ma non è tanto quello il problema, è che dopo vengono presi ad esempio come se fosse Vox Populi e Vox Populi. Ma da chi vengono? E ma chi vengono presi ad esempio? Beh, vengono presi ad esempio da tutti i mass media che riportano quelle che sono le voci in rete come se fossero il Vangelo, come se fossero l'opinione comune, invece no, è, quindi, l'opinione, scusi, di pochissimi, è l'opinione di pochissimi che invece sono frustrati e si sfogano nella rete, e non deve essere presa come l'opinione di tutti, invece c'è questa confusione. Questa me è una lettura sbagliata che fanno i media tradizionali. Eco dice bisogna fare nei giornali i luoghi di osservazione della rete. I giornali ormai si alimentano della baggianata di rete, diventa testo fumante per riempire le loro pagine. Esatto, è diverso. E ti passano il messaggio che invece questa è l'opinione dei tutti. Eh sì, ma noi gli imbecilli, scusi, quando vanno a fare le interviste e poi vanno al mercato, ma chi è che va al mercato? Ormai tutti lavoriamo di giorno, nessuno va al mercato. Ma noi gli imbecilli siamo noi mediatori, non è la rete che in sé. È come quando il sottura lo scarico, tutto quello che è dentro la tazza viene a galla. È logico, vengono tutti a galla, ma siamo noi a dover scindere quello che vale la pena di raccontare e quello che è inutile. Perfetto. Raccontare e filtrare, cosa che non viene fatto. Cioè il fatto che la rete non abbia filtri o che comunque venga preso tutto a... Io non sono d'accordo, per me è bello che non c'è filtro. E la funzione dell'intellettuale, se vogliamo usare questa parola detestabile per quanto volete, è quella proprio di sapersi muovere, sapere fare il surf attraverso l'imbecillità, e laddove non c'è pensiero riuscire a creare pensiero, secondo me. Tommaso, buongiorno. Sì, buongiorno. Tu sei uno studente di Morigi? Sì, vediamo, giovane Tommaso, giovane, 30 anni, quanto hai? Sì. Ma io trovo che la questione sia forse più elementare, nel senso che la verità probabilmente sta nel mezzo tra Eco e voi. La questione è pura di libertà, nel senso lo strumento dà una grande libertà nella scelta di dare le proprie opinioni. Non è il problema dello strumento in quanto tale, non sono i social media, non è internet, non sono Twitter né Facebook, ma sono le persone che lo utilizzano. Il problema che pone Eco è valido sotto alcuni punti di vista, ma chi sarebbe a porre le regole per gestire questi strumenti e per capire le informazioni che entrano in questo spazio? Dici una cosa intelligente. Chi è il grande oste che si prende la responsabilità e togliere il fiasco agli avvinazzati dell'osteria che dicono imbecillità? Quali strumenti ha? E come lui conosce in realtà il vino delle sue botti e poter dire quello fasullo da quello buono? Vania, buongiorno, altra studentessa. Ciao, buongiorno Nicoletti, buongiorno. No, io sono rimasta non sorpresa da quello che ha detto Eco, però secondo me il problema sta nel fatto che comunque intellettuali del suo calibro erano abituati a non sentire quelle voci, quindi erano abituati ad avere l'intangibilità, sensi ogni volta che proferivano parola. E il fatto che internet abbia portato le voci anche appunto di tanti imbecilli alle loro orecchie li turba, insomma, quindi dal loro punto di vista è logico invocare un filtro. Insomma, com'è possibile, un pensiero intellettuale che si basa soprattutto anche su una coscienza sociale spiccata, figuriamoci, ecco, inutile ricordarlo, uno degli uomini che firmò il manifesto né con lo Stato né con le Brigate Rosse, dimostrando che comunque era aperto ad ogni violenta irruzione nella regolarità, purché portasse elevazione sociale. In questo momento sente così forte il cattivo odore che emana il popolo quando esprime il suo parere? È perché prima molto probabilmente era una violenza che lui magari non la condivideva nei metodi, ma la condivideva come ideologia, quindi in qualche modo era qualcosa che lui sentiva di lui e altri sentivano di supportare. Hai detto una cosa intelligente che pongo come domanda a Stefano Morigi dopo le informazioni del traffico. La violenza degli imbecilli è una violenza non ideologica e quindi incavalcabile da parte di ogni intellettuale? A tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Questa mattina stiamo analizzando, grazie a Umberto Eco, il lato imbecille della forza. Lo facciamo da un'aula universitaria della Bicocca di Milano, dove si sta svolgendo un master in comunicazione della scienza, tenuto dal professor Stefano Morigi. Abbiamo fatto irruzione tra gli studenti dicendo: che ne pensate? Umberto Eco dice che siccome la rete è popolata da imbecilli non dovrebbe aver diritto di esprimersi, e siamo convinti però noi al contrario che proprio la vertigine della contemporaneità è proprio quella di stare gomito a gomito con gli imbecilli e continuare a difendere la dignità del proprio pensiero proprio in mezzo a tanti imbecilli che ci guardano, che ci trolleggiano, che inveiscono contro di noi. Però volevo aggiungere alle interessanti dotte conclusioni, diciamo osservazioni degli studenti di Morigi, una altrettanto dotta lettura di un semiologo bolognese, essendo bolognese Umberto Eco, avendo prodotto il suo pensiero soprattutto a Bologna, essendo stato il cardine del Dams, che è stata una fucina di menti illuminate che ha dato pieghe incredibili nel mondo dell'arte, della creatività, della cultura in Italia. E come vede questa sorta di cambiamento di Umberto Eco? Costui è Danilo Maso Masotti, buongiorno. Buongiorno. Danilo Masotti, autore, osservatore urbano, creatore della profonda lettura antropologica dell'Umarell, figura cardine nella nostra società, ma non soltanto nella nostra società decadente occidentale, appena pubblicato Anche questa è Bologna, edizioni Pentagon. Allora, Masotti, da quali sintomi lei vede l'umarellizzazione di Umberto Eco? Allora, il sintomo principale, che è quello tipico di tutti gli Umarell, è appunto quello che in questo momento Umberto Eco presuppone di sapere come si stia al mondo e crede che gli altri non l'abbiano capito. Quindi questo è uno delle prime, dei primi segnali dell'umarellismo, perché essere degli Umarells, come ho spiegato più volte, non è un destino comune, cioè qualcuno può sfuggire all'umarellizzazione. Al contrario, c'è chi ci nasce, è Umarell da quando è nato. E Umberto Eco, cioè, pare che con questa dichiarazione ci sia finito in pieno. È un'altra caratteristica molto importante, è presentarsi in maniera sempre più marcata una totale scontatezza esistenziale. Non dico di Umberto Eco, che non so nulla di lui, però è proprio una caratteristica dell'Umarell. Ecco, i primi segnali sono appunto questo. Allora, io so tutti come stare al mondo, i giovani non capiscono niente, sono tutti stupidi. Ti posso dare un altro segno che tu dovresti interpretare? Quando ha finito di parlare Umberto Eco, hanno tutti applaudito, e lui ha detto una frase, secondo me lo sigilla vita nell'umarellismo. Dice: come? Non c'è più religione, nemmeno una standing ovation, e tutti sono alzati in piedi. È da Umarell questo? Cioè, non è da Umarell, perché ha utilizzato una parola inglese, standing ovation. Beh, Umarell è voluto. E qua ci troviamo di fronte. Beh, Umarell, quando balla al centro anziani, scusa, e finisce la sua comparsita e nessuno si alza in piedi a applaudire, dice la stessa cosa. Sì, cioè, mi sembra più, ecco, una scena umarellica da bar, dove l'Umarell la spara grossa e tutti gli Umarell smettono di giocare a carte e applaudono, ecco. Sentiamo Maurizio. Maurizio, buongiorno. Buongiorno, sono un ex studente di molti anni fa di Umberto Eco, proprio al Dams. Ne porta delle tracce indelebili? Tracce indelebili, sì. Solo che probabilmente non è Umberto Eco il più indicato per parlare di imbecillità. Nel calderone delle bufale ci sono anche suoi testi. Ne citi qualcuno? Perché visto che il nome della rosa è una grande bufala vendutissima. Vabbè, è romanzo, però è romanzo, è romanzato. Oppure basti pensare. Sì, ma scusi, è romanzato. No, Maurizio, oppure, non voglio fare la difesa all'ufficio, ma è un romanzo, non ha pretesa di una bufala. È una bufala vendutissima, poi se il genere è romanzo, ma anche a livello saggistico. Basti pensare che Umberto Eco ha avuto la sfrontatezza di scrivere un altro testo vendutissimo come si scrive una tesi di laurea. Tutti l'abbiamo avuto in mano ai tempi in cui le tesi laurea le battevano a mano le dattilografe. Sembra normale che un professore si permetta di scrivere come si scrive, di dettare ai suoi studenti come si scrive una tesi di laurea? Questo è un gesto di estrema presunzione. Scusi, no Maurizio, lei si è lasciato male, perché quello è un librettino che andava molto negli anni 70, diciamo. Anch'io l'ho avuto, lo guardavo poi dissiquamente, mi sembrava farlo col manualino, se fosse stata una tesi accettabile, era una sorta di bignami della tesi di laurea. Presupponeva studenti che non avessero nessuna creatività e nessuna uscita dalla regola, è vero, dava delle regole per l'unico momento di uscita dalle regole che aveva a disposizione uno studente che la tesi, però era questo. Arrivato al termine degli studi, non sa ancora scrivere una tesi di laurea. Mi sembra paradossale, quindi significa che qualcosa non ha funzionato nei professori, negli insegnamenti. Vabbè, Maurizio, lei ha un po' il dente avvelenato. Stefano Morigi. Sì, sicuramente. È un po' avvelenato. Era un librettino utile. Bisogna riconoscere i meriti di Eco. Era un libro ben scritto, che era di utilità concreta e operativa per lo studente che si affacciava alla prima anche perché prima Stefano, volta Stefano, alla scrittura scientifica. Negli anni 70 non c'era internet, nessuno prendeva la penna in mano prima della tesi laurea e scriveva qualcosa che fosse assimilabile a un testo, non c'era Facebook, non c'erano l'email. Su questo punto mi sento di difendere Eco perché era un testo utile e che è utile ancora adesso per molti versi, ma dove invece mi sembra che abbia ragione Masotti è un altro punto, cioè quello in cui Eco mi sembra uno di quegli anziani che va a vedere il cantiere del digitale dove altri stanno lavorando e lui non può più essere operativo o non vuol più essere operativo, perché mi dà l'idea di quell'intellettuale che parla di ciò che non frequenta. Eco non è presente in rete, fa in modo che la rete parla di sé, ma lui non è operativo in rete. E questo è un atteggiamento piuttosto elitario e snobbistico di un intellettuale tipico italiano di formazione cosiddetta umanistica che quando ogni qualvolta rientra in gioco la scienza o la scienza applicata e la tecnologia preferisce prendere le distanze e distribuire patenti. Questo è un atteggiamento diffuso nell'intellettuale italiano che sarebbe ora e tempo che avesse. Perfetto, ha intuito quello che è il segno satanico e diabolico nel discorso di Umberto Eco, ha paura della tecnologia perché lì si nasconde il demonio e quindi diamo una bella benedetta a tutto e chiamiamo i saggi. Grazie, è stata una mattina molto impegnativa.